94. Pappardelle col sugo di coniglio. Dopo aver lavato il coniglio, tagliatelo a pezzi più grossi di quello da friggere e mettetelo al fuoco in una cazzaruola per fargli far l'acqua che poi scolerete. Quando sarà bene asciutto, gettateci un pezzetto di burro, un poco d'olio e un battuto tritato fine. È composto del fegato dell'animale, di un pezzetto di carne secca e di tutti gli odori, cioè cipolla, sedano, carota e prezzemolo. Conditelo con sale e pepe, rimuovetelo spesso e quando sarà rosolato, bagnatelo con acqua e sugo di pomodoro o conserva. Per tirarlo a cottura, aggiungendo per ultimo un altro poco di burro. Servitevi del sugo per condire con questo e con parmigiano una minestra di pappardelle o di strisce e mandate in tavola per secondo piatto il coniglio con alcun poco del suo intinto. Se non volete condir la minestra, non occorre nel battuto la carne secca.